Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10 e 7 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini. Comincia come sempre Il riposo del guerriero, questa volta però in una sede diversa. Siamo infatti alla BIT, ovvero la borsa internazionale del turismo. Oggi infatti Il riposo del guerriero, a parte trasmettere da qui, però ispirato chiaramente anche dal luogo, ha deciso di occuparsi di quello che è l'Italia. L'Italia che ieri ha decretato anche il suo vincitore, almeno per quanto riguarda la canzone italiana, 61esimo festival della canzone italiana. Sapete perfettamente che ha vinto Venditti per quanto riguarda i Big, e invece Raffaele Gualazzi per quanto Vecchioni, scusate, per quanto riguarda i Big, Raffaele Gualazzi per quanto riguarda invece i giovani, con una canzone straordinaria. Ma l'Italia, perché l'Italia va scoperta, chissà se in questo 150esimo anno dell'unità riusciremo a scoprirla un po' meglio, a visitarla anche. Sono convinto che molti di voi conoscano magari più l'estero che l'Italia, perché si dice sempre tanto è qua a due passi e prima o poi andrò a vedere un posto piuttosto che l'altro, alla fine poi non vedi niente e ti mancano un sacco di luoghi da visitare. Oggi cercheremo proprio di scoprire l'Italia nascosta, quella che non conosciamo e quella che andrebbe sicuramente conosciuta. Anzi, se voi avete qualche suggerimento da darci, perché abitate in un borgo, perché avete visto qualcosa di inaspettato, fatemelo sapere, perché il modo migliore è quello di divulgare ovviamente la conoscenza. Gli sms quindi al 349-238-6666, ma anche il numero verde, perché alle 11.30 giocheremo con il mistero in 24 minuti, per voi la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri su libreriarizzoli.it, e dovete come sempre risolvere questo mistero. Il primo indizio probabilmente l'avete già ascoltato durante la settimana con i promo del programma, e il numero verde per prenotarvi, potete farlo fin da adesso, 800 24 00 24. E siccome oggi andremo a scoprire l'Italia, dobbiamo gridare viva l'Italia! Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste, viva l'Italia, l'Italia che resiste. Era giusto cominciare con Francesco De Gregori di Viva l'Italia, un'Italia che resiste sempre sicuramente, e tutto deve resistere e essere rivissuto, essere ricordato soprattutto. Pepi Morgia, ciao, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Pepi, tu ti stai occupando di Sanremo, perché volevo cominciare proprio da questa località, sì. Però magari senza parlare del festival, ma parlando di quello che c'è intorno al festival, perché quando si accendono le luci e i riflettori, direi, poi luci tu te ne intendi molto, per cui la parola più giusta, su Sanremo, magari, senza magari, si ha ben presente come fatto l'Ariston, ormai da molti anni si ha presente anche come fatto l'esterno dell'Ariston, perché le telecamere hanno cominciato a uscire anche dal teatro, però non si spostano più di tanto. E allora cerchiamo di capire cosa c'è a Sanremo di particolare, forse anche un po' di nascosto, di segreto, che normalmente non si vede. Beh sì, insomma, Sanremo, città anche particolare, bellissima, che si vive l'evento sanremese festivaliero per una settimana, però il dentro è blindato, cioè è diventato più o meno uno studio televisivo, e poi fuori, vabbè, sono Sanremo Off, questa cosa che io dirigo, sono tutte le manifestazioni collaterali, ma poi ci sono un sacco di posti un po' nascosti che la gente non conosce, cioè il grande pubblico non conosce, tipo la Pigna, tutto il centro storico che è proprio a due passi dal teatro Ariston, ma è fuori dai circuiti. Questo è il centro storico, uno dei centri storici più grandi d'Europa, proprio si chiama la Pigna, appunto perché è formato tipo pigna che va su, tipo una torta, tipo una pigna, ed è un dedalo di carruggi, come noi chiamiamo queste viuzze. Sì, i vicoli, diciamo così. Ecco. I vicoli, sì, i vicoli in salita con dei posti, con degli scorci bellissimi. Senti Pepe, ieri Morandi nell'ultima puntata ha ricevuto anche un premio del sindaco, perché la motivazione era questa: Morandi ha portato in giro per Sanremo tutti gli ospiti, o parte degli ospiti, insomma, cioè per far rivivere la città in un modo diverso. Ma cosa ha fatto, per, se tu lo sai, ovviamente, è una mia curiosità. Sì, ma soprattutto è andato lui in giro, si è reso molto disponibile sulla pista ciclabile, perché noi abbiamo questa lunga pista ciclabile di 24 chilometri che costeggia il mare, quindi è molto particolare, l'ex ferrovia, insomma l'ex sede ferroviaria, che ora, oggi è trasformata in pista ciclabile. Lui è un amante del football, delle due ruote, certo, sì. Quindi si allenava tutti i giorni su questa pista correndo. Ah, correva, detto, certo, sì, sì. Sì, sì, lui fa le maratone. Ancora, E quindi insomma si è reso disponibile, perché lo potevi vedere passare. Ecco, un modo per magari portare anche i curiosi, e insomma chi è venuto a vedere, esatto, Sanremo in questi giorni, esatto, portarli un po' fuori dall'Ariston e allontanarli un po', fargli capire sì, che Sanremo è fatta anche di altro, ovviamente. Una volta c'era questa tradizione dei cantanti che si vedevano in giro per i negozi, certo, per le strade. Oggi sono diventati molto più blindati, vedi delle limousine nere che vanno avanti e indietro senza sapere neanche chi c'è dentro. Ecco, invece, urlano. Ecco, è davvero, Sanremo non è così. Secondo me ha ancora quell'atto di familiarità che non dovrebbe perdere, che invece forse ha perso proprio con gli anni, perché tutti si sono un po' più distaccati dal pubblico. In realtà forse incontrare il pubblico per i Carruggi, secondo me, potrebbe essere un bel modo per ritornare a quello che era. E Pepi, c'è un'iniziativa straordinaria, si chiama Sanremo Story, ci sono infatti 61 anni da raccontare, aggiungiamoci anche questo appena finito. Io do gli aggiornamenti sul traffico e poi ne parliamo. Il riposo del guerriero. Ecco, nel traffico è stata nominata Recco, mi vengono in mente le focaccine, è già venuta fame a quest'ora. Allora, le focaccine di Recco sono molto famose. Allora, Pepi Morgia, con me in questo momento in diretta proprio da Sanremo. Parliamo di questa mostra, Sanremo Story si chiama. Story, sì, è una mostra oggi itinerante, in questo momento è a Genova. È tutto un excursus della storia festivaliera, con cimeli, filmati, insomma curiosità, proprio sui 61 anni del festival di Sanremo. Ci sono dei cimeli, delle chicche che provengono dalla fondazione di Ero Tripodi, che è stato un grande appassionato e collezionista di queste, ecco, materiali. Tipo qua una di queste, per capirci. Sì. Ma una di queste, quella che io cito sempre, è la prima lacca, il primo provino, sì, di Nilla Pizzi, che si presentò alla prova della commissione con questo provino, che è un vinile, però dentro una scatola di latta con tutti dei timbri, dei sigilli di cera lacca, con scritto dalla commissione approvato. Ecco, questa è una delle tante chicche che si potranno vedere a Sanremo de Story. Poi ci sono gli abiti dei primi presentatori, di Nunzio Filogamo, i microfoni, le bretelle di Celentano, insomma ce ne sono tante curiosità, fino ad arrivare alla storia di oggi. Ecco, una sorta di memorabilia, quindi, di quello che è una sorta di memorabilia, ma anche di documentazione, per esempio i contratti che i cantanti facevano direttamente con la RAI, quindi le firme autografe sui contratti Domenico. Ecco, molti saranno curiosi di vedere anche quelli di oggi. E allora, ovviamente. Non si vedono. No, so che non si vedono, immagino. È sbagliato, ma non si vedono. Io mostrerei anche quelli, però vabbè. Magari fra 60 anni, no? Li vedremo, sì, quando faremo la mostra. Queste cose qui. Tanto tra 120 anni, cioè ci sarà il 120esimo anno del Festival di Sanremo. Lo saremo sicuramente. Quindi non lo prenderemo. Per chiudere, Pepi, per chiudere questa mostra, poi passerà per Sanremo e passerà per altre città? Cosa succederà adesso a Genova? Abbiamo detto. È partita l'anno scorso, è partita. Nel 70 anni, è partita da Sanremo con un grande applauso, perché sono, immagino, 30.000 visitatori, e poi è itinerante, è una mostra che gira l'Italia, e ci sono delle richieste anche dall'estero, perché chiaramente all'estero il nome del Festival di Sanremo è molto più forte che in Italia. Cioè, adesso quindi... poi che quest'anno, grazie a Raffaele Gualazzi, insomma, torniamo anche a concorrere con i migliori cantanti di tutta Europa, sì, esatto, quindi... per cui... sarà ancora più appetibile sicuramente. Grazie davvero Pepi Morge, buona giornata. Grazie a voi e ciao. Buon lavoro. Grazie, so che a Sanremo c'è il sole, godetevelo. Grazie, ciao ancora Pepi Morge, buona domenica. Adesso ci spostiamo, ovviamente da lì era solo un punto per partire. Sanremo, ci ritorneremo, andremo a scoprire un'altra Sanremo segreta, faremo un po' di gossip, diciamo così, cercheremo di ridere più tardi con Marta Cagnola, che è andata a scovare per noi delle situazioni curiose. Ma adesso volevo girare con l'Italia e lo faccio molto volentieri con Giuliano Gaia, che saluto. Ciao Giuliana, Giuliano, buona domenica. Ciao, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Giuliano, insieme a Stefania Bogliano, Francesco Simone, Marco Sors, ha creato un sito, si chiama Insoliti Musei, e io adoro i musei, sono un grande appassionato, mi piacciono perché raccontano sempre molto e a volte i musei sono dimenticati, ci sono i musei particolarmente famosi, ci sono musei molto meno famosi ma particolarmente interessanti. Voi li avete scovati e poi ti dirò che ne manca sicuramente uno, e poi ti dirò qual è, quindi potrete anche aggiungerlo perché il sito è in evoluzione, come dico io sempre. Se avete qualche comunicazione da dare perché conoscete qualche luogo curioso da visitare, fatelo sapere, la rete ovviamente è sempre pronta ad accogliere le novità. Allora, Insoliti Musei si occupa di scovare quelli più strani in giro per l'Italia, voi ne avete trovati tanti. Giuliano, uno dei tanti, da dove vogliamo partire? Da quello del bottone, per esempio, non lo so. Sì, sono tantissimi, per cui si può veramente partire da dove si vuole. Quello del bottone è sicuramente molto particolare, proprio perché è molto particolare l'oggetto. In verità una delle cose che più colpiscono di questi insoliti musei che noi troviamo in giro per l'Italia, che parlano di oggetti umili, oggetti della vita quotidiana, dal cavatappi ai lucchetti, allo scarpone, ai confetti, eppure attorno a questi oggetti c'è tutta una storia. Per cui ad esempio il museo del bottone ci fa scoprire delle cose inaspettate, per cui il bottone non è solo un oggetto che serve, che ne so, a chiudere una camicia, ma diventa anche un oggetto per mandare dei messaggi, lo usavano le amanti per comunicare con i loro amati di nascosto indossando tipo di bottone. Sai che ho scoperto che ci si scriveva anche sui muri per comunicare agli amanti di nascosto nei castelli? Si usava scrivere sui muri, per cui quello che noi tanto detestiamo, però in realtà l'hanno sempre fatto, per cui comunque sia un modo. Quindi anche i bottoni, va bene. Altri musei interessanti, ce n'è migliaia. Quello che ci interessa raccontare è il fatto che spessissimo dietro questi musei ci sono delle opere di appassionati che raccolgono questi oggetti. Ad esempio ultimamente noi ci siamo del tutto innamorati del Museo della Macchina da Scrivere di Milano, che è tenuto da un gentile signore il quale ha un debito di gratitudine nei confronti della macchina da scrivere. Che l'abbiamo anche intervistato, anche perché il signore ha superato gli ANTA da un po', esatto. E l'abbiamo intervistato e si sentiva che era un grandissimo appassionato. Sicuramente, sì, è questo che colpisce di più, vedere questa passione che sta dietro a questa Italia nascosta, appunto inaspettata. Il Museo dei Pompieri. Museo dei Pompieri sicuramente è molto interessante, come in generale sono interessanti tutti quei musei che parlano anche dei corpi e degli aspetti più inaspettati, se vogliamo, dell'Italia, come ad esempio una cosa che ci colpisce sempre molto è il Museo delle Macchine della Polizia, dove troviamo addirittura un modello di Ferrari guidata un po' alla Thomas Millian nella Roma degli anni 60 del maresciallo Spatafora. Oppure, non so se avete già intervistato il curatore del Museo della Bora di Trieste, che è particolarmente... No, perché non avrei mai pensato ci potesse essere un museo della Bora, hai capito? Cioè, ma tu entri e vieni portato via dal vento, vieni, come funziona? Cioè, c'è anche la sensazione tattile, come è fatto? Cioè, Il Museo della Bora è assolutamente particolare, nel senso che il curatore chiede, in verità è un museo dei venti, se vogliamo, più che un museo della Bora, il muratore chiede agli utenti di tutto il mondo di mandargli venti in bottiglia. Per cui praticamente se tu sei a New York puoi imbottigliare il vento, spediglielo e lui lo esporrà. La famosa area di New York, no? Area di Napoli, la vendono anche. A proposito di Napoli c'è il museo dell'attore napoletano. Eh beh, naturalmente Napoli è totalmente legata al discorso del teatro e dell'attore, e il Museo dell'Attore Napoletano, sappiate che è il prossimo nostro obiettivo per andare a farci un video, perché noi quello che facciamo, oltre che raccoglierli, è cercare lentamente di visitarli e poi fare dei video per promuoverli, per cercare di far vivere anche virtualmente l'atmosfera che si respira, per cui Napoli è il nostro prossimo obiettivo. Io vorrei veramente citarli tutti, perché mi dispiace non citarne qualcuno, che sono chiaramente troppi, però ancora il Museo della Pasta, cioè voi mai potevate pensare potesse esistere il Museo della Pasta? In effetti la pasta è un bene italiano straordinario ed è giusto anche che ne esista un museo. Il Museo dello Scarpone e della Calzatura Sportiva, ma perché? Cioè, qui c'è un appassionato di scarponi, come è nato? In verità molti di questi musei si legano poi a dei distretti produttivi, per cui è abbastanza chiaro che poi cerchino di valorizzare anche la loro storia, come ad esempio Scarpone Calzatura, il Museo dei Confetti, appunto, è legato Sulmona, anche lui ad un'area immagino, di produzione. Ai fratelli Pelini. Il Museo della Figurina di Modena, figurina che non può mancare, adesso è diventata anche elettronica la figurina, per cui è un po' cambiata, è un museo server, così ci ricordiamo come erano quelle di una volta, che forse non vedremo più. Esattamente. Qui mi permetti anche di segnalare che noi cerchiamo di proporre degli itinerari, tra cui appunto Modena, Roma, Toscana, eccetera, proprio per unire più musei insoliti all'interno di una insolita domenica, se volete. Certo, e potrebbe essere un bel modo anche per istruire noi stessi, e se abbiamo anche dei figli, per mostrare delle cose che non ci sono più, o che sono passate, o che continuano a essere ma si sono molto trasformate. Intanto io vi ricordo che siamo alla Borsa Internazionale del Turismo, qui alla Fiera di Milano Ro, al Padiglione 3, ecco perché sentite i rumori, ogni tanto anche gli annunci che ci sono, non ho perso nessuno, non sto facendo io l'annuncio, ma appunto perché sono all'interno della fiera. Io volevo chiudere con te, per Giuliano, con una segnalazione che è questa, così sarebbe bello la inserisse nel sito. Esiste un museo sempre costruito da un appassionato che ormai non c'è più e ha lasciato alla famiglia, il Museo degli Strumenti Musicali Meccanici, è una delle collezioni più importanti del mondo ed è a Savio di Ravenna. Si può andare solo su prenotazione perché il museo è chiuso, bisogna telefonare e chiedere un appuntamento per visitarlo. Benissimo, preso nota e aggiungeremo al più presto. Bene, è un museo veramente interessante. Grazie ancora Giuliano Gaglia, vi ricordo il sito che è questo, insolitimusei.com. Buona domenica. Andiamo avanti con il Riposo del Guerriero, cerchiamo di scoprire un'Italia curiosa, strana, un'Italia insospettata per molti versi, forse un po' ve ne siete anche accorti dalla chiacchierata che abbiamo appena fatto con Giuliano Gaglia. Vi ricordo anche il numero per i vostri sms, 349-238-6666, e poi le 11.30 il mistero in 24 minuti, potete prenotarvi all'800-24-0024. Il Riposo del Guerriero. Sempre in diretta dalla Borsa Internazionale del Turismo qua a Milano, alla Fiera, sono al Padiglione 3, per cercare di scoprire un'Italia nascosta che non conosciamo, un'Italia che anche non vedremo mai più purtroppo, ma che sarebbe stato tanto bello riuscire a vivere. Claudio Rendina, buona domenica. Rendina, ecco, perdonami, insomma, gli accenti, no, sai che in italiano è sempre un problema, no? Non sappiamo mai dove capita sempre. Io sulla seconda, come di solito si usa, invece no, ho sbagliato. Andiamo avanti. Allora, tu hai scritto questo libro, sono i 101 luoghi di Roma sparita che avresti voluto e dovuto vedere. Quindi comunque non vedremo niente di tutto quello che hai scritto. Direi di no, nel senso che ci sono state delle sovrapposizioni su quello che è stato abbattuto. Poi in genere uno fa riferimento alla Roma antica, no? Istintivamente. Ebbene, certo. Non è solo quella, perché insomma nella storia di 2000 e passa anni di Roma ce ne sono di eventi anche vicino a noi, anche diciamo relativi perlomeno fino agli anni 50. Ci vuoi fare qualche esempio, Claudio? Sì. Dunque, per esempio, uno dei punti più famosi, direi quasi al mondo, è la spina di Borgo, e quella sulla quale poi è sorta Via della Conciliazione, perché è una strada in pratica nata sulle strutture di una serie di edifici diciamo, per far capire all'ascoltatore, bloccavano questa strada, e appunto spina di Borgo, perché il Borgo è il rione relativo, e che toglieva la visione indiscutibilmente della piazza San Pietro, no? Perché era una serie di palazzi proprio predisposti all'intorno. Il perché era un fatto positivo, nel senso che uno entrava gradatamente tra questi palazzi e alla fine poi improvvisamente gli appariva grandiosa l'immagine della piazza e del cupolone, ed era una visione eccellente. E invece adesso non è più così, perché la vediamo da molto prima. Esatto. Ecco. A parte l'immagine stessa della strada, che non è le sette meraviglie con quegli obelischi che i romani chiamano le supposte. Vabbè, però ma i romani possono permetterselo, ovviamente ce l'hanno tutti. Senti, perché ti è venuto in mente di fare un libro su qualcosa che non si vede o che si vede, ecco, che devi riuscire a vedere con altri occhi, insomma? Sì, ecco. Perché c'è il discorso che queste parti di Roma che non ci sono sono però il teatro, sono state il teatro di personaggi, di eventi della storia di Roma, e che come tali sono fondamentali nel contesto appunto della evoluzione della città, che sono legati sia a personaggi storici, chiaramente qui il riferimento è immediato alla Roma antica, è evidente, con tutte le ruine del Palatino, della zona appunto circostante del Foro Romano, che logicamente noi vediamo come relitti, ma che in realtà sono diciamo degli spettri di quello che era un contesto grandioso di quelle costruzioni. Uno dice Foro Romano, insomma in realtà ci sono colonne più che altro e sovrastrutture di alcune, ecco, centri, sarebbe straordinario ormai con la tecnologia, no? Non so se conosci i programmi di realtà aumentata, si chiamano così, perfetto. I nostri telefonini con la videocamera possono riprendere un momento di Roma e poi ricostruire elettronicamente quello che manca, no? Come per riportarci poi nel passato. Sarebbe straordinario poter fare dei software che ci possano permettere nella quotidianità, nella visita a una città, di vederla con quegli occhi lì. Chissà, ci arriveremo, ci arriveremo. Devo segnalare che in realtà al Palazzo De Scalchi, che è a Piazza Santi Apostoli, dietro ha una sorta di teatro in un certo qual modo, in cui in effetti gli Odescalchi hanno istituito una sorta di visione di questi ambienti, a volte molto fantasiosi se vogliamo, ma comunque in linea massima, che ripropongono questi ambienti scomparsi, e questa mi pare una cosa interessante, insomma, con quelle strutture tecniche di cui tu parlavi in riferimento a... E la tecnologia ci permette di questo. Senti, per chiudere volevo parlare dell'orologio solare di Augusto. Io così sarei curioso di capire cosa vediamo oggi di questo orologio. Hai presente una sorta, un obelisco in qualche modo, e la struttura diciamo era tale che alla base di questo obelisco era tutto un cerchio, tanto per intenderci lo chiamiamo cerchio, con le varie ore del giorno, e che appunto faceva in modo che l'ombra del sole desse questa indicazione. Quindi una meridiana non posta sulla facciata di un palazzo, ma posta sul pavimento. In qualche modo l'abbiamo riprodotta noi davanti a Palazzo Montecitorio. Quell'obelisco ha i suoi piedi sulle gradinate le indicazioni dell'ora, ma naturalmente tra l'ora solare e quell'altra succedono pastrocchi, ma insomma il rilascio è qualcosa, la rievoca. Ecco, senti, Claudio Rendina, secondo te i romani quante di queste cose conoscono? No, ben poche. Dipende dal fatto di una... non sono molto diffuse certe notizie, perché in fondo il romano si abitua poi alla situazione come la trova, e certo non va a cervellarsi sul passato. Forse questo vale anche di Roma antica, sì. Certo, anche perché insomma anche i film ce l'hanno fatta conoscere, esatto, al di là di tutti i libri e i libri di storia, però forse questo è un problema un po' di noi italiani, che avendo veramente tanto alla fine ci dimentichiamo di averlo, poi ce ne rendiamo conto quando andiamo all'estero. Grazie Claudio Rendina, scusami, 101 luoghi di Roma sparita che avresti voluto e dovuto vedere. Newton Compton, buona domenica ancora, grazie. Fiorello Primi, buona domenica, benvenuto. Buongiorno a voi. Ecco, Fiorello Primi tra l'altro ha uno stand vicinissimo a quello della nostra radio, sono al padiglione 3 della BIT, e è presidente di Borghi d'Italia. Borghi più belli d'Italia, che è una raccolta che descrive quali sono, almeno secondo la vostra ricerca, i borghi più belli d'Italia. non sarà stato facile. No, trovarli sarà stato facile, ma scegliere i più belli non sarà stato così facile. Sì, beh, intanto bisogna dare un'informazione per noi importante, perché questa è un'associazione nazionale di comuni che nasce all'interno dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. È nata una decina d'anni fa proprio con lo scopo di valorizzare e promuovere i piccoli centri di eccellenza d'Italia. Attualmente siamo 200 comuni che fanno parte di questa associazione, che sono stati certificati attraverso un processo anche molto selettivo. Quindi voi ricevevate delle candidature, diciamo? Riceviamo, così, sì. continuiamo a ricevere candidature sulla base di una carta di qualità e di un procedimento di certificazione. Mandiamo i nostri certificatori e poi rendicontano, no, quello che hanno visto, e viene assegnato un punteggio, c'è, cioè, un consiglio di... Ha una pagella, ogni comune ha una, esatto, pagella. Mediamente di quelli che visitiamo fino ad oggi ne abbiamo scartati intorno al 55%. Quindi riusciamo anche a scartare delle cose in Italia. Sì, anche molte. Allora, quali sono diciamo le qualità fondamentali che un borgo deve avere per chiamarsi tale? Ecco, intanto, essendo l'associazione dei borghi più belli d'Italia, il borgo deve essere bello. Però bello, sai, il bello è allora soggettivo. Una bellezza a 360 gradi. Sì, eccoci. Quindi una bellezza di tipo architettonico, naturalmente, con un patrimonio edilizio e storico ben mantenuto. Una bellezza che è relativa all'inserimento nell'ambiente di questo borgo, quindi anche quello che è intorno deve essere bello, quindi il paesaggio mantenuto, l'ambiente circostante e quant'altro, avere caratteristiche di originalità. Una bellezza legata al livello di ospitalità del borgo, quindi i servizi non solo per i turisti, anzi prima di tutto per i residenti, perché un turista comunque quando va in un posto diventa un residente, che ci stia un'ora, due giorni diventa un residente. E quindi la qualità anche dell'accessibilità, la qualità, dicevo, dell'ospitalità e la qualità dei servizi, quindi una bellezza a tutto tondo. Ah, ecco, però mi viene in mente questo, magari un borgo straordinario, bellissimo dal punto di vista storico, però per una carenza di fondi, perché succede, non riesce ad avere tutto questo, cioè le strutture non sono come dovrebbero essere. Voi potete aiutarlo in qualche modo, magari proprio inserendolo, oppure no, devono darsi da fare loro per poi... Cioè, come funziona? È un po' complicata questa cosa, perché noi quando andiamo a fare la certificazione diamo appunto dei voti, c'è una pagella. Sì. Se uno proprio non ha le caratteristiche, viene ammesso, certo, punto e basta. Se, diciamo, ha alcune carenze che non gli permettono di raggiungere la sufficienza, sì, noi gli diamo tempo, non lo inseriamo, gli diamo tempo 18 mesi, se vuole. Certo. Poi lo andiamo a rivisitare. Quindi sarà uno sforzo del comune, esatto, per cercare di migliorarsi. Oppure si può essere ammessi con la sufficienza, questo non significa che se viene ammesso con riserva. Sempre dopo 18 mesi vengono date le prescrizioni, andiamo a vedere se ha migliorato questo punteggio. Se è andato oltre la sufficienza viene definitivamente inserito, altrimenti viene escluso. Ecco, si può anche venire eliminati, diciamo così, nelle edizioni dell'anno dopo? Assolutamente sì. No, l'anno dopo no, perché noi, diciamo, periodicamente facciamo rivisitazioni, soprattutto per quei borghi che sono appena sopra la sufficienza. Sì, diciamo l'edizione dopo, adesso ne ho data una per anno. Beh, non c'è un'edizione, non è, questa è un'associazione permanente. Ok, ah, ho capito, certo. Quindi si può entrare e uscire. Si può entrare e uscire, però quando si entra si è all'interno. Periodicamente facciamo rivisitazioni. È evidente che se è successo qualcosa di negativo che ha deturpato e quindi ha fatto recedere di qualche punto, si può uscire anche. Potrebbe così succedere. No, è successo. È successo, sì, anche. Sì, sì. Vogliamo fare l'esempio di qualcuno fra questi? Sono tanti, quanti sono intanto? 200 e sono in tutte le regioni d'Italia. Questo sì, grazie al cielo, perché l'Italia veramente da offrire ne ha in ogni metro. E da dove partiamo? Da un punto a caso? Allora, un punto a caso, vediamo un po'. L'Emilia Romagna non è casuale, nel senso che c'è un borgo straordinario che si chiama Vigoleno, in provincia di Piacenza. Sì. È una frazione di un comune, il comune di Vernasca, dove noi faremo il sesto festival nazionale dei borghi belli d'Italia, perché ogni anno in un luogo diverso dell'Italia organizziamo un festival al quale partecipano un centinaio di comuni, no? Quindi saranno due giorni di kermesse, si mangia, si beve, si balla, si canta, si può vedere l'Italia, quella vera, quella nascosta, oltre la partecipazione di 6 o 7 delegazioni straniere, perché noi siamo anche all'interno di un'altra associazione che si chiama Le Plus Beaux Villages de la Terre, con francesi, belgi, giapponesi, canadesi, rumeni e russi. Poi dobbiamo sempre battere i francesi, io sono sempre i francesi sono di nati prima, sono stati i primi. Proprio per questo, sono stati i primi nel vino, ci hanno insegnato a farlo e dobbiamo cercare. Tanto non di... mi sentono, no? I francesi no, mi sentono. Qualcuno sì, perché vabbè, sentono via internet, ma diciamo sono italiani che vivono là. Loro sono nati 20 anni prima di noi, però penso che li abbiamo superati. Siamo sempre un po' sul filo di lana in questo senso. Castello, sì? In questo posto vigoleno, piccolissimo, ci sono 7 abitanti all'interno di questo borgo fortificato. È un castello, è una cosa bellissima, straordinaria. Ecco, entrando ma dentro... come se andassi a vivere nel Castello Sforzesco di Milano, funziona. Bravo, così. Esatto. Io sono invidiosissimo. Esatto. Ma come fanno questi 7 ad abitare? Sono curioso di capire. Perché è un borgo all'interno di un castello. Quindi cioè, è abitato da queste 7 persone. Non ha un affitto calmierato come quello non di Milano. Credo che costi anche abbastanza stare dentro. No, perché per capire. Volevo anche capire dei borghi curiosi, che sono molto strani da qualche punto di vista. Allora, Civita di Bagnoregio. Dove siamo? Provincia di Viterbo, nel sì. Lazio. Comune di Bagnoregio. Questo è un borgo che l'abbiamo definito la città che muore, perché è un borgo al quale si può accedere solo attraverso un ponte pedonale. Se quel ponte venisse chiuso, ciao, non si entra, basta, più. Sì. E anche qui vivono 9 persone. È un posto bellissimo, straordinario, è all'interno di un canyon, no? E c'è un picco che all'interno di questo canyon emerge, e sopra c'è questo piccolissimo borgo al quale si accede attraverso un ponte. C'è un ponte strettissimo, largo 1,5 metri, e si può accedere solo esclusivamente a piedi. Ecco, il ponte su che cos'è? Su un fiume? Su... No, è in un canyon. Ah, su un canyon, quindi non si riempie d'acqua, non no, c'è no, assolutamente, la paura che a un certo punto ecco l'acqua superi il livello del ponte. È un canyon di tufo che tra l'altro si erode continuamente nel corso dei secoli. Questo borgo si è sempre più ristretto. Quindi da 9 abitanti andremo a 7. No, adesso 5. Lo hanno consolidato e quindi rimarrà così. È una cosa straordinaria, non avrei mai potuto pensare che ecco in Italia ci potessero essere posti così. Vi sveleremo anche come cercare di trovare questi borghi e andarli a scoprire, perché è stato pubblicato ovviamente un libro che contiene le informazioni e anche le fotografie. Tra poco, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Sempre in diretta dalla BICT, padiglione 3, in questo momento il riposo del guerriero è con Fiorello Primi, presidente dei borghi più belli d'Italia, questa associazione che cerca di fare scoprire a noi italiani quanto sia bella l'Italia. Ma ce ne rendiamo conto? No, lo dico perché molto spesso diciamo che l'Italia non sa salvaguardare le proprie ricchezze, poi invece scopriamo che ci sono borghi di questo livello e che quindi credo che abbiano molto a cuore il luogo dove vivono. Ma guardi, io sono un ex sindaco di uno di questi borghi. Un po' si vedeva, sa? Sì. Non so, all'area del sindaco, così. L'ho fatto per 12 anni, quindi fatto... abbastanza lungo. E sono uno dei fondatori di questa associazione. Noi ce ne rendiamo conto, cioè i sindaci di queste piccole città se ne rendono perfettamente conto, tant'è che abbiamo investito nel corso degli anni importanti risorse finanziarie, magari trascurando qualche buca sulle strade, qualche punto di illuminazione, anche mettendosi contro la popolazione spesso, investendo però su un patrimonio del passato per creare uno sviluppo futuro. E i 200 borghi che sono all'interno sono il frutto del lavoro di 200 sindaci. Immagino, certo. Insieme alla popolazione, che poi piano piano capisce perfettamente che il futuro sta nel passato. Quindi mantenere e tutelare questo patrimonio importantissimo, sono risorse incredibili dal punto di vista anche della unicità. Ricetto di Candelo in Piemonte è una specie di Pompei del Medioevo, cioè è stato completamente restaurato. Questo è un borgo antichissimo che è stato mantenuto proprio come era nel Medioevo, cioè entrare dentro questo ricetto, dentro questa fortificazione, significa immergersi in un'altra epoca, cioè proprio sentire anche i carri che passano, i cavalli, insomma. Ecco, questo è il nostro modo di essere soprattutto, ma non so, gli italiani prima di tutto, però noi stiamo facendo una promozione importantissima all'estero, in tutte le capitali europee e del mondo, e riscontriamo un interesse straordinario da parte dei tour operator e dei giornalisti, che poi li portiamo in Italia a fare gli educational. E noi ce li ritroviamo tutti nei cataloghi, immediatamente, piccoli centri, Ussò, Ostana, in Piemonte, in due hanno poco più di 100 abitanti, si ritrovano in un catalogo magari degli Stati Uniti. Sì, no, ma infatti poi, come sempre, è molto più facile essere presenti all'estero, no? Esatto. L'Italia è sempre più spesso presente all'estero che in Italia, però in realtà forse sta un po' cambiando, anche per esempio ormai l'interesse degli italiani di andare a scoprire i luoghi grazie all'enogastronomia, quindi a cercare di mangiare in un certo modo e di scoprire anche il luogo. Io credo che anche gli italiani stiano cominciando ad apprezzare sempre di più il loro paese, almeno forse quello che spero, quindi lo vedo. Di questo sono convinto e lo vedo anche dai numeri, perché noi la guida che pubblichiamo ogni anno e vendiamo in edicola, adesso in edicola in questo momento non c'è, si può ordinare. Spiegheremo poi esatto come averla. Noi ne vendiamo circa 40-45 mila copie all'anno, non sono poche per una guida turistica, e abbiamo circa 1.700.000 accessi unici in internet, di cui il 60% in italiano e il 40% in inglese. Quindi più un milione di persone all'anno accedono al nostro sito per organizzarsi i propri viaggi, organizzano ogni anno circa 300-350 mila itinerari attraverso il nostro sito, e sono italiani che vogliono scoprire certo. Il loro paese. I ministeri vi aiutano? Allora, in questo momento noi abbiamo una collaborazione molto forte sia col Ministero del Turismo, sia con l'ENI, con l'ICE e con le ambasciate. E io credo che abbiano capito che questa è una rete nazionale, forse uno dei pochi prodotti nazionali che si possono vendere all'estero, uscendo dalla vendita delle cose tradizionali italiane, perché vabbè, è chiaro che Firenze, Venezia, Pompei si vendono da sole, non hanno bisogno di comunicazione, perché la difficoltà di far conoscere questi luoghi è comunicare. Esatto, quindi questo ci pensiamo noi. Quindi meno male che funziona, siamo anche molto felici di questo, perché l'Italia è fatta di piccole cose straordinarie, solo che spesso non le vediamo, quindi se qualcuno ce le mostra siamo solo fortunati di avere qualcuno che ci pensa. Il sito internet. Sì, il sito internet, ho detto, è visitato tantissimo da www.borghitalia.it, quindi basta digitare Borghi, siamo sempre sui motori di ricerca, su tutti i motori e lì troverete ovviamente tutte le informazioni per avere la guida, per capire che cosa contiene. E adesso ho detto per i sindaci, ecco, che ci stessero ascoltando, magari se il borgo non è entrato, diciamo, in classifica, qualche punto in meno, di darsi da fare e cercare di fargli raggiungere la sufficienza. In questo momento 150 comuni in lista d'attesa, quindi vorrei fare un piccolo spot per il nostro festival dei borghi più belli d'Italia, sì, che si terrà nei comuni di Castellarquato e Vigoleno in provincia di Piacenza il 3 e il 4 settembre. Bene, grazie Fiorello Primi. Grazie a voi. Buona domenica. Buongiorno. Il maialino ben rosolato, sei pronto? Grazie a lei, ma adesso basta con gli arrosti. Io e le mie signore aspettiamo gli umidi, fagioli con salsicce. E spuntature dei maiali. Sì, in attesa che cocia basta. Le pappardelle sono pronte. Grazie. Che dici, Augusta? Va bene il menù, caro? Buono, grazie, caro. Prego, amore. Giovanni. Vegno. Preparami prosciutto magro lieve nere per la principessa d'Aragona. Eccolo, che aveva già preparato per quattro. No, in cinque oggi. Sono lo stesso, tanto quelli non mangiano. Ah, va bene. Giovanni. Comandi. Fammi due braccioli di maiale in padella e ripassate col sugo. Sì. Ah, preparami due doppie pappardelle al sugo delle lepre. Abbondanti, mi raccomando. Abbondanti. Ma sono sempre quei due. Se d'ore chi mangia e si soffoca adesso. Se strafogano. Che sono principe, ti chiedo? Sì, principe e principesse. Buongiorno, principe. Tu sono della schina. Buongiorno, cara. Della schina, dice. Avete visto quei due? Si stanno mangiando tutto loro. Ci andrebbe un'altra bella cucchiata dei fagioli? Buona. Che? Via di un'altra salsiccia. Beh, questo era un episodio, erano le vacanze intelligenti, famosissime, di Alberto Sordi, che con la moglie va a visitare l'Italia cercando di capire qualcosa di quello che invece non riescono a capire, perché i figli li spingono a scoprire un'Italia un po' particolare. Siamo negli anni 70, quindi tra musica e sculture strane e musei incomprensibili, i due si ritrovano alla fine al ristorante a mangiare come dei pazzi, perché è l'unica cosa che amano davvero. E vicino al tavolo c'è una famiglia di reali, forse appunto una principessa con tanto di principe, che all'inizio non mangiano quasi niente, poi invece scoprono quanto sia bello il gusto di assaporare la cucina italiana. L'Italia, abbiamo visto, è fatta di borghi straordinari, ma non soltanto, anche di posti bellissimi dove sarebbe bello poter andare, non dico tutti i giorni, ma qualche volta nella propria vita sicuramente. Claudio Bonomi, buona domenica, grazie di essere buona venuto. Buona domenica a te. Al giornalista della rivista del gruppo 24 Pianeta Hotel, che ha curato l'introduzione alla guida Hotel 24, esatto. Una guida del sole 24 ore che trovate ovviamente in edicola. E che cosa contiene? Allora, diciamo che questa guida è molto particolare, un po' si differisce dalle guide che sono comunicamente disponibili sul mercato, perché è la prima guida che raccoglie tutte le strutture lussuri da 4 stelle in sud italiane, no? Perché diciamo sul mercato dell'editoria dedicata al turismo troviamo guide dedicate all'hotel con la spa, la dimora storica, qua ci sono proprio tutte, cioè ci sono tutte le formule, ci sono oltre 4.500 strutture, di cui 170 sono analizzate in profondità con la descrizione dei servizi e un ricco corredo fotografico. Quindi diciamo il turista qua ha a disposizione tutte le formule, dal relais al resort con la beauty farm, alla casa di montagna di charme, al boutique hotel urbano. Qualsiasi formula è in qualche modo raccontata da questa guida. Ecco, quindi concedersi il lusso di un pernottamento un po' fuori dalle regole, a volte dal comune. Vedremo cosa è possibile fare, perché ci sono anche strutture particolarmente inaspettate nel nostro paese, certo. Dopo il GR. Okay. Il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini, in diretta dalla Borsa Internazionale del Turismo, la fiera di Milano Rossmo, al padiglione 3. In questo momento sono con Claudio Bonomi, che ha curato l'introduzione a Guida Hotel 24, la guida del sole 24 ore, con la descrizione di quanti abbiamo detto? Siamo su oltre 4.500 strutture, di cui appunto 170 sono descritte in profondità. E quindi strutture e rigorosamente dalle 4 stelle in su. Diciamo che parliamo della crema, dell'aristocrazia, dell'offerta alberghiera italiana, un'offerta alberghiera che dobbiamo dire è uscita alla scoperta solo negli ultimi anni, perché se guardiamo gli ultimi indicatori sulla numerica degli alberghi vediamo che dal 1990 al 2008 questo tipo di strutture, cioè quelle da 4 stelle in su, si sono triplicate in Italia. C'è stato... Ma questo perché? Ma perché prima c'era in realtà una mancanza di offerta. Cioè curioso, in un momento di crisi, no? In un momento dove la gente non ha tantissimi soldi da spendere, così viene da pensare che a moltiplicarsi siano in 2 o 3 stelle. No, in realtà perché prima ce n'erano molto pochi e quindi si è coperto questo quindi gap. Quindi c'era una richiesta, esatto. E quindi, poi ci sono stati gli investimenti di grandi catene internazionali nel settore alberghiero che hanno investito in Italia, perché comunque l'Italia, nonostante la crisi, resta una delle destinazioni turistiche più gettonate, ecco, a livello mondiale. E anche perché credo che in un momento proprio così, quando uno si dedica un weekend e si dedica a una vacanza, vuole credo avere, certo, il meglio, ecco, certo, almeno in quel poco avere il meglio, certo, e quindi la ricerca, certo, credo che sia anche in questo senso. Sì, magari riduce il tempo di soggiorno, meno però, notti però più straordinarie per qualche ragione. Teniamo conto anche che poi c'è la leva dei viaggi low cost, cioè non dobbiamo pensare che il turista low cost ad esempio sia un turista straccione, no? Magari uno sfrutta il fatto che paga un biglietto, un passaggio aereo a pochi euro e più poi nel pernottamento. Investi più nel pernottamento, certo, nel ristorante, nel servizio, nel ristorante gourmet, nell'hotel con, che ne so, la spa di 4.000 metri quadrati, e quindi diciamo si gratifica in un altro modo. Certo, che è una meraviglia solo sentirne parlare, poi esiste anche. Quindi abbiamo, quindi oggi il nostro percorso di riposo del guerriero è quello di cercare di trovare un'Italia un po' inaspettata e diversa dal solito. Abbiamo visto dei borghi veramente curiosi, dei musei davvero insoliti. Vediamo poi di parlare invece di alberghi insoliti, anche particolarmente nuovi alcuni. Ecco, sì, magari visto che siamo a Milano, giochiamo, sì, un attimo in casa, no? Io segnalerei Innanzitutto è d'obbligo segnalare questa struttura, il Seven Stars Galleria, che si trova proprio in pieno centro di Milano, Galleria Vittorio Emanuele, che è l'hotel 7 stelle. Apro una parentesi, non esistono le 7 stelle, il massimo è 5 lusso. Esatto. Perché 7? 7 perché questo hotel ha avuto una certificazione extra lusso, si chiama, data da un organismo di certificazione indipendente che è SGS, che ha sede a Ginevra e che appunto ha dato questa certificazione che, diciamo, qualifica l'albergo, che fornisce degli servizi fuori standard. Posso avere il maggiordomo tutto il giorno? Posso avere il maggiordomo personale. La scarpa fatta su misura? Posso avere anche lo chef personale che mi prepara il mio menù su misura. C'ho pure anche l'event planner che mi organizza la giornata, lo shopping, mi prenota il ristorante. In qualche modo sono coccolato da quando entro all'albergo a quando esco. Insomma, un servizio, diciamo, ultra personalizzato. Ecco, quindi questo fa in modo che l'albergo riesca ad avere il 7 stelle. Questa certificazione 7 stelle. Ecco, invece passiamo alla moda, visto che la moda è così italiana, sì. Cerchiamo di tenerci stretto questo primato perché sì, sta diciamo barcollando. Che uno dei trend, come dici giustamente tu, uno dei trend dell'hotelleria di alto livello è i cosiddetti fashion hotel, no? Che sono firmati da stilisti che provengono dal mondo dell'abbigliamento, dell'alta moda. Un caso classico citato anche dalla Guida Hotel 24 è questa Maison Moschino, che nasce, diciamo, all'interno di un palazzo neoclassico che è stata la prima stazione ferroviaria di Milano, quindi diciamo vicino alla stazione di Porta Garibaldi, che è un'area, come tu sai, di grosso fermento, dove è un asse dello sviluppo futuro della metropoli. E qui ci sono questi interni firmati che si richiamano allo stile dello stilista, ovviamente il tutto integrato da un servizio benessere spa di altissimo livello e da i menù firmati da Moreno Cedroni, che è uno dei top chef di grido al momento. Ecco, giriamo ancora per l'Italia, sono tanti, non abbiamo tempo. Che ti incuriosisce in modo particolare? Ma sempre rimanendo sull'onda un po' della cucina, perché diciamo la cucina, l'alta cucina di hotelleria, la cucina è un ingrediente indispensabile. Io mi sposterei in Alto Adige, nel cuore delle Dolomiti, a San Cassiano, dove c'è Rosa Alpina, che vanta tre ristoranti, di cui uno è Sant'Ubertus, che è un ristorante con solo 11 tavoli, è un ristorante che vanta 2 stelle Michelin, e uno all'interno di quel contesto ha, diciamo, la possibilità di avere un servizio gastronomico di altissimo livello, è una spa anche in questo caso di altissimo livello, quindi diciamo che ha un trattamento di benessere psico-fisico a 360 gradi. Allora, sì, l'ultima cosa, centro-sud, visto che abbiamo toccato centro-sud, il nord. Allora, vediamo un po', diciamo che due regioni dove lo sviluppo di queste hotellerie di alto livello sta avendo un forte incremento sono la Puglia e la Sicilia. Sì. Io della Puglia, diciamo, una struttura molto caratteristica di quello che si sta facendo in Puglia all'interno di questo settore è la masseria di San Domenico, che si trova a Savelletri di Fasano tra Bari e Brindisi, e in questo caso si tratta del restauro fatto a regola d'arte di una masseria fortificata, e in questo caso qua l'offerta è veramente completa, perché c'è anche un campo da golf, perché diciamo i golfisti sono uno dei target preferiti di questo tipo di hotellerie. E sempre rimanendo in tema di golfismo, sì, andiamo in Sicilia, a Sciacca, in mezzo agli aranceti, in mezzo agli aranceti e agli agrumenti, e a Sciacca, dove c'è il Verdura Golf Sport Spa della Roccoforte Collection, che vanta anche in questo caso ben, mi sembra, 6 ristoranti, una spa di 4.000 metri quadrati e campo da golf per attrarre i golfisti, che come si sa sono un target medio-alto che spende molto. È vero, diciamo che anche il golf può essere giocato anche da chi non appartiene a quel target, lo diciamo perché ha sempre, però è vero che insomma chi gioca golf spesso gira molto e vuole il meglio, per cui cerca l'eccellenza. Hotel 24, grazie davvero e Claudio Bonomi, ecco, scusa, ho avuto un attimo di defaillance, perdonami, ma qua perché sento l'orchestra, c'è la banda, c'è di tutto alla Borsa Internazionale, ecco, del Turismo. Lasciami sì. L'ultima cosa, come che no. Il libro è già disponibile nelle librerie e su Shopping24, il nostro sito d'acquisti online, e c'è anche un sito dedicato per chi volesse saperne di più, sì, che è www.guidohotel24.it. Ti ringrazio. Grazie a te. Buona domenica ancora, gli aggiornamenti sul traffico, poi torniamo a parlare della nostra Italia. Il riposo del guerriero. Continuiamo a parlare di un'Italia che non si conosce, o forse che sì, si conosce, ma andrebbe così fatta anche, cioè comunicata agli italiani. Noi per primi spesso non sappiamo le cose che appartengono alla nostra nazione. Marco Magnifico, vicepresidente del FAI, buona domenica. Grazie anche a voi. Parliamo del Fondo Ambiente Italiano, perché ci sono stati dati i risultati finali della quinta edizione dei Luoghi del Cuore. Cosa sono i Luoghi del Cuore? Beh, il nome del Cuore sono un censimento che noi facciamo ormai da parecchi anni, un anno sì, un anno no, nel quale noi chiediamo agli italiani: segnalateci, diteci, scriveteci in qualsiasi modo, internet, posta, cartoline, nelle banche, nelle filiali di Intesa San Paolo, se avete un luogo al quale siete particolarmente affezionati che per nessuna ragione vorreste veder crollare, dimenticare, deperire. E siamo rimasti stupefatti quest'anno quando, rispetto agli anni precedenti, abbiamo avuto il quadruplo di segnalazioni, cioè quest'anno abbiamo ricevuto 500.000 di segnalazioni. Quindi ho ragione nel dire che gli italiani finalmente si stanno accorgendo che hanno un patrimonio straordinario al quale cominciano a tenere più che nel passato? Sì, peccato che se ne accorgono gli italiani e non se ne accorgono coloro che governano gli italiani, per cui lasciano andare il patrimonio alla malora. Però gli italiani, ma quelli che governano gli italiani sono italiani, se ne accorgeranno anche loro, no? Sono chiusi nelle loro stanze. Io volevo intanto, Marco, perdonami, apri una parentesi, c'è arrivato un messaggio che mi interessa leggere, perché prima parlavamo di alberghi, dice bisogna anche vedere come danno le stelle, ho visto 4 stelle che ne meritavano 2, e io è una domanda che avrei voluto fare prima con Bonomi, però lo riavremo ospite e parleremo proprio di questo, di come vengono assegnate le stelle, perché è una classificazione comunque internazionale, per cui ne parleremo. Chiudo la parentesi e torno a parlare con te, Marco. Quindi luoghi straordinari, chiaramente, che per qualche ragione abbiamo nel cuore, che vanno salvaguardati, e voi però alla fine dovete scegliere qualcuno di questi luoghi per dare una mano poi a fare in modo che non si perda. Certamente, ma è già successo in moltissimi casi, nei censimenti precedenti abbiamo salvato un meraviglioso mulino in Alta Val Brembana, siamo riusciti con i Luoghi del Cuore a fare sì che la Regione Siciliana abbia finalmente adottato il Castello della Colombaia, stupefacente baluardo davanti al porto di Trapani. Abbiamo restaurato i sentieri del borgo di Rimella in Valsesia, che è un paese abbandonato dove però vivono ancora pochi eroici cittadini. Insomma, questa curiosa geografia storico-artistica, paesaggistica e spontanea che emerge dai Luoghi del Cuore fa sì che in effetti il FAI si occupi di qualcuno, ovviamente con le forze che abbiamo a disposizione, ma di qualcuno di questi monumenti segnalati. Ecco, io tra l'altro poi vi spiegheremo anche come dare una mano, ecco, al FAI, volevo tra tutti questi luoghi segnalare la stazione radiotelegrafica Guglielmo Marconi. Beh, è un posto veramente straordinario, del quale io non avevo mai sentito parlare in vita mia, devo dire la verità. E non sarai l'unico. E non, ecco, sarò io... certamente, certo, l'unico, ed è veramente un luogo dove si annida un pezzo glorioso della nostra storia, perché la vicenda andò così: Vittorio Emanuele III seppe a un certo punto che Guglielmo Marconi aveva la sua stazione radiotelegrafica, luogo di esperimenti, di scientifici, eccetera, in Cornovaglia. E il re dice: oibò, un italiano che fa queste cose meravigliose in Cornovaglia, lo manda a chiamare. Il re era San Rossore e gli dice: senta un po', Marconi, ma perché non vieni a lavorare in Italia? Sì, re, mi dia un posto che io ci vengo. Prendono la carrozza, se non la macchina, vanno in giro un po' per San Rossore, trovano una collina che secondo Guglielmo Marconi va benissimo, e Marconi disse: Benone, se lei mi dà questa collina e con questa cascina io ci metto la mia stazione. E così fu, e quindi nel 1911 fu inaugurata la stazione di Coltano, che per l'appunto è vicino a Pisa, nella tenuta reale, oggi presidenziale, di San Rossore. E lì avvennero le cose più straordinarie della vita e degli esperimenti di Guglielmo Marconi, per esempio nella stazione di Coltano arrivò il primo SOS del Titanic, oppure dalla stazione di Coltano nel 1931 partì il segnale radio che accese le luci del Cristo Redentore a Rio de Janeiro. Quindi voglio dire, ecco, tutta questa, come dire, civiltà della, così, della comunicazione che oggi ci delizia, ma forse anche ci terrorizza, perché siamo sempre connessi, beh, in un certo senso ha la sua origine a Coltano, ecco. Coltano che fino al 1944 mi sembra fu vitale, fu attiva, poi fu bombardata e le antenne non furono più tirate su e quindi da allora cominciò un declino che oggi ha portato addirittura al crollo del tetto, eccetera eccetera. Ecco, quindi, adesso voi vorreste recuperare ovviamente tutta la stazione radiotelegrafica, ma anche tirare su le antenne? Devo dire la verità, io non sono ancora stato a vedere Coltano, prossimi giorni. Certamente è straordinario come sia un pezzo di natura, di paesaggio meraviglioso, perché siamo nella tenuta di San Rossore, un pezzo anche di monumentale, perché è una cascina di tipo lorenese, quindi è una bella cascina di fine 700 e 800, e poi c'è tutta la storia scientifica della stazione sperimentale di Marconi, per cui, che è quello che la rende ancora più affascinante. Certamente, quindi mette insieme tre cose. Insomma, è un luogo che parla della storia gloriosa del nostro paese, anche grazie a un personaggio straordinario come Guglielmo Marconi. Quindi vorremmo, ecco, senz'altro far qualcosa, appartiene al demanio dello Stato, il Comune di Pisa è interessato a questo punto a fare qualcosa, penso che grazie alle migliaia di segnalazioni, mi pare che sono 13.000 per gli italiani che ci hanno scritto salvate Coltano, beh, direi che non si può lasciare che questa cascina, in questo paesaggio meraviglioso, con questa storia straordinaria che l'ha imposta, direi, proprio all'attenzione del mondo, possa continuare la sua storia di declino. Non possiamo che fare qualcosa. Assolutamente no, ci sono moltissimi modi per contribuire ad aiutare il FAI, iscrivendosi alla fondazione ma anche donando contributi, c'è il 5 per 1000 e poi adottare anche un bene del FAI, ci sono moltissimi sistemi. Parli come me, voglio dire, quindi grazie di questo aiuto e di questo suggerimento. Insomma, certamente viviamo nel paese più bello del mondo, se non ce ne rendiamo conto tutti noi e se non facciamo qualcosa, beh, insomma, lo perderemo per sempre, per cui dobbiamo invece fare qualcosa. Fondoambiente.it è il sito, grazie davvero Marco Magnifico, che ne è il vicepresidente. Buona domenica. Ciao Marco, grazie. E abbiamo ancora, così parlando ancora di luoghi curiosi d'Italia, sono partito da Sanremo e adesso ci voglio ritornare. Ti sputtanerò, al giornale andrò, con in mano foto dove tu sei con un trans. Le consegnerò le intercettazioni e alle prossime elezioni sputtanato sei. Marta Cagnola, ciao. Ciao, ma sapete che anche ho una curiosità sugli alberghi, adesso che parlate sugli alberghi. Allora, sapete che adesso forse faranno una nuova convenzione con le case discografiche, perché i prezzi degli alberghi a Sanremo, e lo sto dicendo col ditino alzato di disapprovazione, si sono molto alzati. E quindi pare che le case discografiche siano sul piede di guerra, questa è una cosa che sappiamo in pochi, perché vogliono rinnovare, vogliono fare una convenzione, perché tutto il rimborso che viene dato dalla RAI per Sanremo, perché non tutti lo sanno, ma la RAI dà dei soldini, va in alberghi, allora loro sono molto arrabbiati e quindi adesso pare che succederà questa cosa, dovranno fare una convenzione perché sono arrabbiatissimi con gli alberghi. Ecco, poi sappiate infatti che ogni cantante che vedete su un palcoscenico non si muove mica da solo, insieme a lui c'è uno staff di tantissima gente, quindi gli alberghi sono veramente pieni perché è molto di più la macchina che c'è alle spalle di quello che vedete sul palco piuttosto che quello che appunto si vede, per cui è importante capire questo. Infatti con Marta, che come sempre ha introdotto perfettamente i segreti, già ne stiamo rivelando uno. Hai qualche altro segreto nascosto di questa Sanremo che è appena passata, questa 61esima edizione condotta da Gianni Morandi? Beh, intanto mi fa piacere che tu abbia scelto la canzone vincitrice del festival per introdurmi, perché ormai è innegabile che la canzone... Beh, così, dai, sono stati veramente formidabili. Hanno dimostrato che ci sono dei presentatori giovani che non facciano il bravo presentatore, tra virgolette. Hanno dimostrato che si può fare satira senza ripetere Berlusconi allo sfinimento, ma si può veramente parlare di tutto, anche citare gli intoccabili. Secondo me saprebbero fare satira anche su Benigni, che è stato il trionfatore del festival. Loro sono capaci veramente di tutto e sono stati davvero bravissimi. Ma la cosa più divertente, secondo me, quest'anno, che mi ha veramente toccato il cuore e che veramente da qualche ora mi commuove, è il fatto che abbiano dato la possibilità ai giornalisti di votare. Ma una possibilità talmente assurda che il regolamento stesso vanificava il voto dei giornalisti. Ah, ma dai. Allora, ti ricordi quell'anno, non so, magari ieri anche a Sanremo, in cui la giuria di qualità fece vincere gli Avion Travel? Sì, saltando, certo. Tutto. Ecco, sì. Ieri tutti i signori della Ipsos, della società, di statistica, così, ci guardavano male ogni volta che chiedevamo informazioni, perché poi in 2-3 eravamo lì a capire, detto tramite, come pilotare il voto, cioè è ovvio, no? Ti danno la possibilità, l'avrebbe fatto qualsiasi italiano che guardava il festival, e ogni volta ci guardavano e dicevano: ma guardate che com'è, non è come l'anno di Avion Travel, cioè non illudetevi. E quindi il meccanismo era talmente assurdo per cui qualsiasi cosa tu facessi, il voto non sarebbe stato mai cambiato, mai ribaltato. Così no, funzionava. In realtà potevi, detto tra noi, noi sapevamo. Sì, cambiare il. Potevate cambiare, cioè i tre classificati potevano cambiare, nel senso che uno poteva scendere al quarto posto e salire, esatto, quello al quarto, al terzo. Ma sapendo l'ordine dei tre. Sì. E volendo noi, assolutamente, nel trio di, sì, testa, Vecchioni, perché era l'unico, sì, in grado di vincere con il televoto. Sì. Auspicando anche la Cruz e magari Davide Van Destroos, non potevamo, sì, permetterci di non votare Vecchioni, perché se Vecchioni fosse stato al terzo posto l'avremmo sbattuto fuori. Certo, certo, certo. Magari con la Cruz che non avevano possibilità al televoto. Quindi insomma, un meccanismo assurdo. È insomma un po' una cosa da illusionista, no? Tu pensi di poter, ecco, così gestire, passione, scegliere qualcosa, invece ti è stato tutto imposto, in qualche modo era già deciso. Grazie Marta, ti abbraccio e goditi ancora l'ultimo, grazie, giorno di Sanremo. Ciao, buona giornata e facciamo entrare il nostro gastronauta. Il gastronauta. Davide, ciao, buongiorno. Buongiorno. Scusami, io mi sono intrattenuto un pochino con Marta, ti ho rubato qualche minuto, ma ero curioso di sapere retroscena di Sanremo di quest'anno. E stiamo parlando di eccellenze italiane, siamo alla BIT ovviamente, quindi insomma stiamo scoprendo un'Italia anche dal punto di vista dell'enogastronomia. E come va? Scusami. Prego, prego. E no, dicevo, come va e come sta andando insomma questa voglia di turismo legato a ciò che si mangia e che si beve? Credo che sia ormai il punto di forza del turismo italiano in quest'ultimo anno. Ma guarda, io ieri proprio dalla BIT ho fatto una trasmissione su questo argomento, sì, però vorrei dirti che se tu giri per i padiglioni della BIT ti chiedi se è una fiera turistica o una fiera gastronomica, perché non c'è stand che non abbia la sua area destinata al cibo, quindi guardati attorno appunto dove sei e ti renderai conto di questo. Allora, ho già visto, dire, il pane, guarda, ecco. Vuol dire che sicuramente il cibo è un trainante importantissimo del turismo e ci sono molti dati che lo confermano. L'enogastronomia negli ultimi anni è diventato veramente un medium straordinario per molti territori italiani, anzi laddove non c'erano, diciamo, spazi per attirare turismo o mezzi come possono essere il mare, la montagna, i laghi, il cibo è diventato colui che ha permesso appunto di far arrivare moltissimi viaggiatori e non turisti, questo vorrei specificarlo, in molti territori italiani. Quindi la chiave d'ingresso è una delle chiavi d'ingresso. Il problema è che si pone in questi territori l'ospitalità, e qui arriviamo al discorso della ristorazione, arriviamo alla ristorazione, agli alberghi. Ci sono molti che sono attrezzati, molti che sono in grado di fare questo, altri no, per cui se il turista o il viaggiatore arriva, poi magari la seconda volta non torna perché non ha trovato quelle condizioni per poter così rimanere o passare un weekend o due giornate o una settimana con tranquillità. E uno dei punti dolenti, che se ne dica, in questo paese sono gli alberghi. sì, è vero, sono cresciuti negli ultimi anni, però ancora diciamo che l'hotellerie deve fare dei grandi passi in avanti. Crescono i 5 Stelle, Milano ormai ne è un esempio lampante, però non tutti possono andare nei 5 Stelle. Quello che manca sono proprio gli alberghi, diciamo, quelli di mezzo, il 3 Stelle validi. E ho sentito prima il discorso sulle stelle. Le stelle non sono una categoria a livello internazionale come tu forse affermavi, ma in Italia vengono assegnate dalle regioni e in molti casi ci sono anche dei giudizi completamente contrastanti. Un 3 Stelle di un'area, se tu vai a vedere, non corrisponde mai a un 3 Stelle da altre parti. Quindi questo è già un problema secondo me molto serio. Mi sono espresso molto male, nel senso che le stelle di solito, e questo vale per non soltanto per l'Italia, vengono assegnate per delle caratteristiche dell'albergo legate non al posto per esempio dove si trovano, ma a dei servizi che offrono, anche la metratura per esempio del bagno o della camera da letto, e quindi la metratura non dice necessariamente che poi sia un bel bagno, non so se mi sono spiegato. Assolutamente, porta dei giudizi, quindi magari uno senza saperlo vuole andare in un posto, vede un 3 stelle, lo prenota e poi si accorge che non ha le caratteristiche magari così di ospitalità e di servizi di altri 3 stelle che magari esatto. Era stato nelle ultime settimane. Poi devo dire che la verità è che gli alberghi in Italia sono molto cari, a parte il caso che ho sentito di Sanremo della rivolta dei discografici, però rispetto a livello internazionale sicuramente sono molto cari. Ci sono delle catene all'estero, in Francia e in Spagna, che sicuramente offrono a dei prezzi veramente competitivi dei servizi ottimali. In Italia ancora questo non c'è, probabilmente, e qui lo sottolineo, mancano le grandi catene. Cioè, in Italia negli ultimi anni sono scomparse quelle poche catene che avevamo e oggi sono tutte in mano straniere le catene, che stanno rifacendo gli alberghi appunto in molti casi perché non erano adeguati. Quindi manca questo grande aspetto importante, ed è veramente bizzarro che in un paese ricco di turismo, che basa il turismo molte delle sue entrate, non ci siano catene italiane in grado di offrire dei grandi servizi. Ce ne sono, ma non sono grandi come tante altre straniere che ormai sono ovunque in tutto il mondo. Ecco, volevo chiudere con una cosa, Davide. Secondo te questo trend continuerà, cioè il trend di andare a visitare il nostro paese proprio basandosi su quella che potrebbe essere la carta dei vini e il menù che troveremo sulle tavole, o alla fine scemerà, cioè durerà un periodo e poi no? Perché dal mio punto di vista credo che possa resistere, ecco, questa tendenza. Diciamo che la tendenza della cucina spettacolo è in via discendente, invece quella reale, quella sostanziale dei territori, io credo che, e dei prodotti, io credo che resti tale ancora per un bel po' di tempo, perché la gente deve sempre mangiare e quindi sicuramente questa resta. Diciamo che il livello culturale della conoscenza della gastronomia e del vino è molto cresciuto e quindi credo che questo possa continuare. Ieri mi è stato dato un dato dalle città del vino che hanno così monitorato il turismo del vino e sembra che ogni turista spenda in media 143 euro quando si muova. Quindi devo dire, secondo me siamo a livelli abbastanza interessanti ancora. Quindi io credo che rimanga se dall'altro lato abbiamo sempre un discorso di domanda e offerta. Se dall'altro lato, cioè l'offerta dal punto di vista dei territori di cibo e di vino, rimarrà valida come lo è stata negli ultimi anni. Credo che sarà così, perché poi hanno usata la chiave, diciamo così, di ingresso, e uno poi tenderà, spero, a salvaguardarla. E conviene a tutti, ovviamente anche all'Italia. Grazie Davide, buona domenica. A domenica. Ciao, grazie ancora. Le previsioni del tempo e poi giochiamo con il mistero in 24 minuti, 800 24 00 24. Il riposo del guerriero. Un'ascoltatrice mi fa notare che la stazione di Marconi è a Coltano, nella tenuta di Coltano, e non nella tenuta di San Rossore, insomma, come invece aveva detto il vicepresidente Fai, però insomma siamo comunque lì. E poi arrivano anche altri messaggi con le polemiche che riguardano il turismo, il denaro, eccetera, ma chiaramente questi non erano argomenti che il riposo di Guerriero voleva toccare. Io volevo solo cercare di scoprire un'Italia che normalmente non si vede, un'Italia nascosta. costa, da un certo punto di vista, un'Italia indubbiamente da conoscere e che però non è sempre semplice vedere o scoprire. E invece adesso chiudiamo il capitolo Scopriamo l'Italia, perché dovete scoprire voi, riuscire anzi a individuare il mistero e dare la soluzione giusta. Un mistero in 24 minuti. Questo è il tempo che avete a disposizione per risolvere il mistero. La risposta può essere come sempre una notizia oppure un personaggio. L'importante è che per arrivarci dovete usare gli indizi musicali che ascolterete. Si parte da 1000 euro per l'acquisto di libri cartacei ed elettronici su libreriarizzoli.it. Il numero per partecipare 800 24 00 24 e questo è il primo indizio. Che mi telefona mentre sto lavorando e te le dico che al momento sono occupato, ti richiamo. Quando la chiamo dice che non l'amo e fa l'offesa, che abbia la pretesa che ogni giorno io le faccio una sorpresa. Sì, mi ci vuole un po' di disciplina, che mi obbliga a svegliarmi presto la mattina, che mi faccia stare un'ora a esaminare una vetrina, che quando danno un fumone in TV inviti gente a cena, che mi svegli per chiedermi se sto dormendo, che tenti di cambiarmi poi mi accusi di stare cambiando. Oh mamma, mi ci vuole la fidanzata, perché io devo mettere. Eccolo qua il primo indizio, l'articolo 31 della fidanzata. Davide da Milano, buona giornata. Pronto Davide? Pronto, pronto. Eccoci, ciao, qua. Stefano. Non vieni alla beat? Vorrei tanto, ma mi sa che non posso. Niente, vabbè. Perché volevo dire, non vieni a mangiare alla beat, perché secondo Paolini tutti gli stand c'è appunto la parte no gastronomica. Io sono curioso anch'io di fare un salto, mangiare qualcosa. Ma a parte questo, Davide, questo era il primo indizio. Abbiamo 1000 euro sul tavolo. Vuoi dare già una risposta, cercare di portare a casa i 1000 euro o vuoi un altro indizio e scendere a 500? Guarda, giocare per giocare e provo a dare la risposta. Bravo Davide, mi piace questo spirito sportivo, vai. Niente, io pensavo appunto alla notizia che c'è stata in settimana, che partendo da un articolo, penso degli anni 50 o giù di lì, pare che si sia svelata la ricetta segreta ufficiale della Coca-Cola. Con la fidanzata non ha molto a che fare, però insomma va bene. Ma con l'articolo sì. L'articolo 31 perché era il gruppo, certo. Grazie Davide, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Francesco dalla provincia di Brindisi. Sì, buongiorno, buongiorno a lei. Ciao Francesco, eccoci qua. Buongiorno anche agli Buongiorno. Ascoltatori. Allora, cosa vogliamo fare Francesco? Abbiamo ancora 1000 euro sul tavolo. Allora, io preferisco non avere l'aiuto, gioco con sportività. Anche tu cerchi di portarti a casa i 1000 euro? Sì, chiaro. Allora, la risposta qual è? Anche se lei fa le cose difficili, insomma. Allora, la risposta secondo me è questo. C'è stato il 14 febbraio il deposito di una sentenza della Cassazione che impatta sull'articolo 31 della Costituzione per l'apertura, diciamo, sia pure con delle cautele, dell'adozione anche ai single. Anche ai single. E questo qui c'è stata poi la faccenda della conferma, dico anche questo, per una signora genovese sia pure con forma alla speciale ha avuto la conferma. Era riuscita, certo, infatti proprio da qui è nato tutto. Tra l'altro grazie di... non sappiamo chiaramente se la risposta è quella giusta, lo sapremo solo allo scoccare del 24esimo minuto, però complimenti perché in questo caso, fra l'altro, l'indizio è stato pescato dal nome del gruppo e non dal titolo della canzone, neanche dal contenuto, però diciamo che insomma complimenti per aver detto questo. Grazie, ciao Francesco. Buona giornata, grazie. Grazie ancora, siamo ancora a 1000 euro. 800 24 00 24, gli aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Continuiamo con il nostro mistero e siamo ancora a 1000 euro. Irene, buona domenica. Buona domenica, buongiorno a tutti. Oh, allora, abbiamo 1000 euro, cosa facciamo? Ne teniamo 1000? Sì, ne teniamo 1000. Ah, vabbè, va bene, teniamo 1000. Una delle risposte l'hanno già data, allora provo con la seconda che mi sembra, visto che lei è lì, dico la 31esima edizione della Beat. Non le piace come risposta? No, mi piace Irene, mi piace da impazzire, perché ormai avete capito il meccanismo e andate a cercare veramente di tutto. Quando la risposta qualche tempo fa era stata il Vinitaly, e uno degli indizi era proprio il numero dell'edizione, per cui forse, ecco, memore di questo, hai dato questa risposta. Brava Irene, ma non sappiamo qual è la risposta giusta. Grazie ancora, buona domenica. Grazie, buona domenica, ciao. Ciao Mario da Udine, buona giornata. Buongiorno a lei. Ciao Mario, siamo ancora a 1000 euro. Hai sentito come sono spinti i nostri ascoltatori oggi? Sì, ho sentito. Sono molto più svegli di me, per cui forse sarà il riposo. Sarà il riposo di Stefano Gallarini la prossima domenica, e invece gli ascoltatori ormai sono sveglissimi. Allora Mario, cosa vogliamo fare? Niente, te volevo tenere anch'io i 1000 euro, ma la soluzione che avevo pensato era già stata detta. Anch'io avevo pensato alla sentenza della Cassazione. Dell'articolo 31, alla, certo. Articolo 31. Per cui, quindi, non so, parlando di fidanzata, mi è venuta in testa subito una notizia che mi ha colpito molto. Era la soluzione di quel signore che era stato accusato di aver ucciso anni fa la fidanzata. Sì, certo, che è stato assolto poi. 4 anni fa. Per il secondo omicidio, giusto? Sì, è stato assolto. Sì, non posso mai aggiungere a informazioni, sennò poi si capisce. Grazie Mario, buona domenica. Ciao, grazie. E Enzo da Reggio Emilia. Sì, pronto, ciao. Ciao Renzo, ma un altro indizio no? No, io te lo dico, ma se vuoi. Sì, infatti non avere... io voglio chiedere il secondo indizio. Vedi, aspettavamo giusto te per farlo. Scendiamo a 500 euro, eccolo qua. Attraversare. Non so nemmeno più quale. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Eccoci qui, allora questa era dottore Mina con Beppe Grillo per 500 euro. Enzo. Dottore. Ma visto che aveva detto che ha. Doveva curarsi, io dico il fatto che la notizia dell'abbandono purtroppo di Ronaldo dal mondo del calcio. Hai visto? Ronaldo, basta, basta, adesso si occupa di ragazze, di altre cose, insomma. Sì, mangiare. A lui piacciono sì, un po'. vabbè, giusto, tu non lo faresti. No, fa bene. Fai bene, devi goderti la vita, adesso può farlo ancora, meno male, certo. Cioè, non nel senso per lui, sei contento così. Grazie Enzo, ciao, buona giornata. Ciao. Ciao, potrebbero essere 500 euro per Enzo, chi lo sa. Ennio da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Ciao Ennio, allora. Niente, non mi viene in mente nessuno. Io niente, posso dire un nome così. Così tanto per buttare qualcosa lì, sì. Fare qualcosa, deve mettere la testa a posto, non lo so, io ho pensato a Corona. A Corona. Grazie Ennio. Ciao, buona domenica. Ciao, no, stavo pensando a mettere la testa a posto a Corona, l'associazione mi faceva pensare. Fabio da Milano, buona giornata. Pronto? Ciao Fabio, eccoci, siamo arrivati. Ciao, ciao. Stefano, ciao. Senti, mi sa che devo buttare una risposta a caso perché avevo un paio di idee, ma me le hanno bruciate tutti. E quali idee avevi tra le due bruciate? Ero indeciso tra l'edizione del beat. Sì. E la sentenza della Cassazione. Ma sai che qua è vero che si mangia? Scusa se ti interrompo, perché arrivano tutti con dei vassoi, con le cose qua. Cosa fate voi? Sì, no, io volevo salutare intanto anche Davide Cioccia e ringraziare, se poi lui lo saluto alla fine, Paolo Corleone dopo. No, perché stanno facendo sì dal vetro, perché ci sono queste persone con i vassoi, con le cose da mangiare, dicendo vieni da noi, no, non possono entrare qua, quindi voi non avete diritto. No, devo dire che la Beat quest'anno appunto si è arricchita anche da questo punto di vista, come diceva Davide Paolini, di cose da gustare. Allora Fabio, tornando a noi, dovresti dare una risposta diversa. Indizio, metti che mi viene un'illuminazione. Va bene, chi sa, eccolo qua, il terzo indizio. eccolo qua, Fabio, era il terzo indizio, siamo a 300 euro. Madonna di Secret. Terzo indizio che aggiunge possibilità a un'altra risposta che è già stata già data, sia quella della Coca-Cola. Quindi niente, io dico una trasmissione, il mistero in 24 minuti, la mia risposta. Grazie Fabio, io ciao. Veramente, vieni qua alla Bilt, ti regaliamo qualcosa perché sei stato veramente gentile, grazie davvero. Ci Fabio. Ci vediamo oggi pomeriggio, ciao. Volentieri, noi siamo qua e abbiamo due papabili, uno sono Davide da Milano, ciao Davide, ben ritornato. Ciao. E l'altro è Francesco dalla provincia di Brindisi, Francesco. Sì, ciao. Allora, tu avevi parlato, Francesco, della modifica dell'articolo 31 per l'adozione singola, invece Davide aveva raccontato della ricetta della Coca-Cola che è stata scovata in un articolo. E allora, a chi diamo sti 1000 euro? Chi è che li vuole dei due? Io, grazie. io lo so. E invece la risposta giusta è arrivata da Davide da Milano. Grazie a Davide. Francesco, però l'ultimo elemento di Madonna penso che si riferisse al segreto della... Certo, segreto della ricetta, infatti. Grazie Francesco, però complimenti per la tua risposta, davvero, papà. Ti rifaccio volentieri. Grazie Francesco. Ancora a lei. Grazie. Davide, sì. Davide, 1000 euro per te, articolo 31, perché la ricetta è stata scoperta in un articolo del 1979, dottore perché si parla di medicina, infatti Pemberton era l'inventore della Coca-Cola, era un farmacista. Esatto, è secret perché la ricetta avrebbe dovuto essere segreta, forse non lo è più. 1000 euro per te da spendere su libreriarizzoli.it, avrai molto da leggere e anche molto da regalare. Ciao, grazie, buona domenica. Mille. Stefano. Sì. Stefano, scusa, io approfitto dell'occasione per manifestare veramente la mia ammirazione per come fai il tuo lavoro. Ti seguo da tanto e mi piace molto. Ti ringrazio molto, adesso mi commuovo come Vecchioni ieri sera e buona giornata, ciao, grazie davvero, grazie a Carmelo Lauricella e a Paolo Corleoni, i registi, dalla radio, dalla postazione insomma fissa, chi da qui dalla Beat, grazie a Gesù De Luca redazione, a Margherita Aina e a Claudia Carusi che sono in redazione qua con me e a voi ovviamente che mi avete ascoltato, ci sentiamo domenica prossima come sempre alle 10 con il riposo del guerriero.